Dunque, abbiamo un nuovo ministro della famiglia che è noto per essere un ultracattolico che difende la famiglia tradizionale ed è contro il diritto delle donne di autodeterminarsi. Secondo lei c'è un rischio che si possa tornare ad una situazione, quella di 40 anni fa, in pratica, quando invece è stata approvata la legge per l'aborto? Beh sì, il rischio c'è ed è concreto perché gli attacchi all'applicazione della legge 194 ci sono dal primo momento dell'approvazione di questa legge e già le statistiche ci dicono che l'obiezione di coscienza raggiunge delle percentuali inquietanti e che di fatto il diritto all'aborto è parzialmente negato nel nostro paese. In più le posizioni del ministro Fontana sono apocalittiche, descrive il declino demografico paragonandolo a un'epidemia, argomentando questo declino in termini falsi, perché intanto il declino non c'è se guardiamo la popolazione su scala mondiale ma anche nazionale. E in realtà questo riportare in auge il modello della famiglia tradizionale non è altro che un altro sintomo della propaganda razzista di questo governo, perché il declino che si segnala è il declino della razza bianca, cioè che le donne italiane e europee emancipate, preoccupate dal lavoro, autodeterminate, decidono di non fare figli come conigli, di controllare le nascite e di puntare sulla qualità della vita e delle loro famiglie anziché sulla quantità. Quindi la scelta di Fontana porterebbe questo governo verso una posizione di quel tipo, quindi ad avversare questi diritti che le donne si sono conquistate nel tempo. Certo, purtroppo in questo momento ci attendiamo il peggio, perché gli annunci finora sono stati abbastanza chiari. Inoltre, con la riduzione delle entrate fiscali nello Stato e con le manovre economiche che questo governo ha intenzione di fare, è chiaro che la sanità ne risentirà. E già negli ultimi anni tutte le prestazioni a tutela della salute delle donne e della salute riproduttiva delle donne sono sempre state classificate come non indispensabili. Da questo punto di vista ci attendiamo un peggioramento. La vostra associazione, quindi non una di meno, è pronta a combattere nel caso ci siano delle politiche o delle iniziative da parte del governo che vadano contro gli interessi delle donne, in questo caso rispetto alla riproduzione, l'aborto e questi temi? Certo, noi siamo prontissime, già lo scorso 26 maggio siamo scese in piazza in diverse città in Italia per ribadire che la legge 194 non si tocca a 40 anni dalla sua applicazione e anzi per puntare il dito anche contro l'obiezione di coscienza che appunto, come dicevo prima, rappresenta un ostacolo enorme all'autodeterminazione delle donne. Purtroppo con questo governo si apre un'aspra stagione e tra l'altro è evidente come tutti i ministeri che legano il patto sociale, il versante dei diritti, siano stati affidati a dei personaggi che rappresentano un netto passo indietro rispetto alle conquiste e le battaglie degli ultimi 40 anni. Ci attenderà un lungo cammino e credo che questo avrà anche una ripercussione su altri temi generali come il lavoro, la famiglia, le separazioni e anche i diritti per le donne che subiscono violenza, perché la Lega è riuscita a inserire nel contratto di governo la fantomatica sindrome d'alienazione parentale che di fatto nega alle madri la possibilità di tutelare i figli anche in caso di violenze che sono molto frequenti, oppure sul tema del lavoro delle donne viene specificato come le donne debbano puntare tutto sulla conciliazione dei tempi casa-lavoro, mentre per gli uomini non sono previste misure che possano portarli ad avere un ruolo più attivo nella partecipazione della vita familiare. E poi già l'istituzione in sé di un Ministero per la Famiglia dimostra il grave passo indietro. Laddove in Europa esiste su larga scala un welfare su base individuale, in Italia si istituisce un Ministero per le Famiglie, negando di fatto non solo le famiglie che non sono eteronormate, ma anche tutte le persone che vivono in solitudine, che non hanno legami parentali e che probabilmente non potranno contare su un'assistenza sociale. Anche il reddito di cittadinanza, che è una forma di welfare a base individuale, probabilmente subirà una modifica se mai sarà approvato e diventerà l'ennesima forma di sostegno alle famiglie. Chissà, ma insomma non abbiamo grandi segnali di speranza da ogni punto di vista. Grazie, sei stata molto gentile. Grazie a voi.